Noi il 30 di novembre del 2022 abbiamo formulato un'interrogazione e anche un contestuale richiesta di accesso agli atti per avere tutti i dati del Comitato Tecnico Scientifico e tutte le analisi fatte dal DICAM, il Dipartimento dell'Università di Bologna, che si è occupato fino a poc'anzi proprio di monitorare la Torre Garisenda. I dati che ci sono stati dati sono soltanto risalenti fino a fine 2018, pertanto abbiamo sufficientemente modo di poter dire che c'è un buco in queste rilevazioni. O non ci vengono fornite, e questo è molto grave perché sarebbe un'omissione di risposta a quello che è la prerogativa dei consiglieri comunali dall'accesso agli atti, in quel caso andremmo dal prefetto a fare un esposto. Qualora non fosse così, sarebbe paradossalmente peggio, perché vuol dire che dal 2018 fino ad oggi non ci sono dati circa lo stato della Garisenda. Peraltro abbiamo scoperto, sempre da risposta che ci ha fornito la dirigente comunale di riferimento, che il dato dello strapiombo, cioè l'inclinazione della torre sull'asse orizzontale di base sul suolo, è risalente al 2011, quindi noi abbiamo diversi anni, con in mezzo peraltro il terremoto dell'Emilia, senza dati di rilevazione. Quindi quello che chiedete anche all'amministrazione è più chiarezza e trasparenza. Sì, da questo punto di vista il sindaco Lepore sembra quasi schizofrenico, ci chiede collaborazione, noi tendiamo la mano per il bene della città, poi dice che ci vorrebbe denunciare qualora noi dessimo dati che evidentemente lui dice di non avere. In realtà questi sono tutti dati che il comune ha già, perché ce li ha forniti il comune. Siamo disposti alla collaborazione, ma la collaborazione non funziona in questo modo. Continueremo ad interpellare l'amministrazione comunale per avere tutti i dati possibili e solleciteremo il sindaco Lepore perché dica tutta la verità, pubblichi la lettera della sovrintendenza, pubblichi tutti i dati del CTS, se esistono.